Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Ero in Nepal e ho saputo che c'era questo boom del traffico di organi. Ho pensato come giornalista che la cosa migliore da fare fosse fingersi malato e andare a comprare un rene, andare a comprare un organo per vedere se era possibile, era facile, era falso. Dove è avvenuto il trapianto? A Madurai. In quale ospedale? Apollo. Chi è il dottore a Madurai? Il dottor Palani. Vendo rene causa emergenza economica. Non lavoro, ho due figli tutti disoccupati. Vendo rene al miglior offerente. Vendo rene o midollo. Ho bisogno di soldi. Rene a 30.000 euro. Rene, parti di fegato o midollo osseo. Disposto a tutto pur di prendere soldi. Da 3 anni non trovo lavoro. Vendo midollo, sangue o rene. Si parla di decine e decine di annunci messi da persone che non ce la fanno più arrivare a fine mese. E per risolvere il loro problema hanno deciso di mettere all'asta un pezzo del proprio corpo. 500, perché devi capire che è un pezzo della mia vita. L'avevo sparata grossa, 80.000. Carlo vuole 500.000 euro e Angela 80. Sei giovanissimo. Quanti anni hai? 23. 23? Ha solo 23 anni, ma anche per lui il motivo della scelta è chiaro. Perché mi servono i soldi. Questa cosa ne hai parlato con qualcuno? Di questa cosa non si parla con qualcuno, è una cosa che devo decidere io. Organi spiantati senza il loro consenso, spesso sono anche uccisi con l'indifferenza del governo. In Cina a molte persone gli organi vengono addirittura rubati da vivi, vengono effettivamente imprigionati e poi da vivi vengono spiantati gli organi. 300 serbi kosovari rapiti, trasportati in campi dell'orrore in Albania, uccisi e sottoposti all'espianto di organi nel 1999 dopo l'occupazione del Kosovo da parte della NATO. Un crimine perpetrato dalle milizie dell'UCK, un vero e proprio mercato di organi con uomini e donne uccisi perché fossero strumento di un business. Anche in Italia c'è un traffico di organi, organi prelevati a minori stranieri scomparsi dai centri di accoglienza. La denuncia arriva dal ministro Maroni. Abbiamo delle evidenze di traffici di questo tipo, di minori che sono presenti o sono stati rintracciati in Italia. Emilia Costantini, giornalista, scrittrice, Quel segno sulla fronte è il tuo ultimo romanzo in libreria da oggi, che ha come sfondo proprio questo traffico illegale di organi. Il tuo romanzo è ambientato tra l'Italia, la Romania e la Turchia. Perché? Perché io, come ho sentito anche dal servizio che avete appena mandato in onda, sono assolutamente convinta, ma ho avuto anche delle notizie e non posso dire da chi, riguardo al fatto che anche in Italia, al contrario di quanto si dica e si pensi, esiste questo traffico illegale di organi. Ecco, il protagonista del tuo romanzo è un chirurgo turco che è stato più volte arrestato e rilasciato perché effettuava trapianti illegali. Ma è un personaggio vero o di fantasia? No, è un personaggio vero che naturalmente nel mio romanzo viene citato con un nome non vero, fittizio, ma è una storia reale. E quindi questo traffico esiste veramente, questo traffico illegale? Esiste ampiamente all'estero. L'Italia in un primo momento è stata sempre definita come una sorta di ponte di passaggio da Lampedusa, da Bari, quando arrivavano questi traghetti pieni di, anche in Puglia, questi traghetti pieni di disperati, e quindi questi ragazzini che sparivano senza identità e che spariscono tuttora venivano chiamati gli uccelli migratori, no? Cioè quindi portati poi dall'Italia fuori Italia per essere o uccisi o sottoposti ad un espianto forzato. Ecco, molti di questi ragazzini, appunto, che tu dici arrivano a Lampedusa senza identità, sono loro le prime vittime di questo mercato, quindi. Così dicono, abbiamo sentito anche l'ex ministro Maroni che sollevò il problema. Certo. Poi dopodiché il silenzio su questo. Sì, cioè, improvvisamente queste notizie flash che appaiono, riempono le prime pagine, sì. Durano 2 giorni e sì. Spariscono. Sì. È andata così. Senti, molti sono questi, di questi ragazzini sono destinati dalle organizzazioni criminali appunto a questo espianto forzato. Ecco, preparando il tuo romanzo, tu quanti casi hai verificato? Cioè, come, dato che sei giornalista anche d'inchiesta e di costume, Hai verificato questi casi? No, io ho sentito dei racconti. Io faccio sì la giornalista, non faccio la cronista di nera, mi sono sempre occupata, come sai, di spettacolo, sì, e di cultura, però io ho raccolto delle testimonianze, testimonianze, e fra l'altro so di un film, anche questa è un'altra cosa strana, un film che è stato realizzato da Stefano Reali sulla mafia pugliese, che ha fatto questo genere, probabilmente continua a farlo, questo genere di operazioni su bambini sconosciuti che finiscono al nord Italia in cliniche compiacenti dove la gente può pagare gli organi senza dover stare, come dire, nelle liste d'attesa che sono, certo, sempre più lunghe. Questo film molto bello che io ho visto, stranamente in Italia non è stato mai distribuito. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Ecco, queste cliniche svizzere dove si fanno questi esperimenti sono letteratura o realtà? Sono realtà, quindi? Da quello che so sono realtà. Nel film di Stefano Reali si vede addirittura una di queste cliniche al confine tra l'Italia e la Svizzera. Il titolo del film, scusa? Il Tramite. Ma non lo trovate, non è stato mai distribuito. Io l'ho visto perché l'ho visto in DVD, ma non esiste. Senti, i tuoi romanzi hanno sempre avuto come sfondo grandi temi sociali. È la giornalista che ispira la scrittrice? Guarda, io credo che gli scrittori italiani, io faccio parte di qualche giuria di premio letterario, quindi di libri ne leggo tanti. La caratteristica degli autori italiani è quella di essere molto ombelicali, si raccontano molto su se stessi. A me piace raccontare la realtà in cui vivo. Senti, al Festival di Todi, a proposito, tu realizzerai tra pochi giorni uno spettacolo che ha come sfondo un'intervista immaginaria a Marina Berlusconi. Perché sì, proprio lei? Perché è un personaggio inquietante. Perché? Cosa ti ispira? Perché è un personaggio molto potente, che però sta sempre dietro le quinte, rilascia pochissime oculate interviste, solo, come dice lei, tutte interviste naturalmente pilotate, dove le domande e le risposte sono concordate alla base, a priori. Senti, c'è Pietrangelo Buttafuoco che ti vuole fare una domanda. Sì, buongiorno. Buongiorno. Dopo la denuncia di Roberto Maroni, perché gli altri sono stati zitti? E poi, poi ti risulta che tutt'oggi a Lampedusa ci sia una notizia crimine di... Ma guarda, sui giornali proprio di, mi pare su Repubblica dell'altro giorno, si parlava proprio di questo, della scomparsa di questi ragazzini che arrivano senza identità e che scompaiono nel nulla. Quindi non lo dico io, lo dicono i cronisti che si occupano proprio di questo. Quanto al fatto che dopo la denuncia di Maroni non se n'è più parlato, mi ricordo che anche l'ex ministro Guidi si occupò molto della questione. Ma sai, noi in Italia, vi ricordate quel film Il Boom che era di Monicelli, mi pare, commedia all'italiana, sì, con Alberto Sordi, che in una clinica di Roma si vendeva un occhio. Certo. Senti, Mario, tu c'hai una domanda? Siamo in chiusura? Sì, no, se l'Italia può fare qualcosa per fermarlo, ma non solo sensibilizzare, qualcosa di più, ecco. Guarda, io penso che io non sono qui ovviamente a dare delle soluzioni. Io ho sollevato un problema, così come lo sollevai con la fecondazione eterologa quando ho scritto il mio primo romanzo nel 2009. Adesso il problema della fecondazione eterologa è esploso dopo la sentenza della Cassazione. Io sollevo dei problemi, dei dubbi, poi ci sono le persone preposte a risolverli questi problemi, non sono certo io che devo farlo. Bene. Grazie. A voi. 800 24 00 24 349 238 6666. Formulo le 5 questioni o 3, vediamo quante vengono. 1. Il Movimento 5 Stelle è disponibile a studiare un correttivo che consenta a chi vince di governare. Noi riteniamo che il Toninello non garantisca questo. A noi sta a cuore la governabilità. Però chi vince deve meritarselo, non un partito del 4% che prende il 53% dei seggi. Come è stato possibile in questi anni che Mastella ha fatto cadere il governo Prodi con 3 senatori? Nei sistemi maggioritari sono caduti tutti i governi in questi anni con quella volontà di raggiungere la certezza della vittoria. Secondo punto, noi diciamo mai più inciuci e mai più larghe intese. Se noi ci dobbiamo mettere insieme, lo diciamo prima. Se aveste detto prima che facevate l'accordo con Farage, siamo sicuri che vi avrebbe usato qualcuno in più, o forse qualcuno in meno. Però voi non l'avete detto prima. Quindi su questo punto... Avete detto anche che Bersani faceva il Presidente del Consiglio. Ma c'eravate voi, non ce l'ha fatto fare. Tre, noi siamo dell'idea di rimpicciolire i collegi, 42 nomi, di cui uno cancellabile e eventualmente uno evidenziabile con voto di preferenza, è un meccanismo a nostro giudizio molto complicato. La questione della cancellazione del nome, noi crediamo che sia anche in questo paese per i cittadini italiani la grande possibilità di cambiare l'offerta elettorale. I partiti devono pensarci due volte prima di mettere impresentabili, indagati. Quarto punto che vi chiediamo di affidare alla Corte Costituzionale prima il giudizio sulla legge elettorale. Quinto e ultimo punto, vi chiediamo se siete anche disponibili a ragionare di riforme costituzionali. Se c'è volontà di dialogare con noi sulla questione delle riforme, apriamo un tavolo sulle riforme anche domani. Ma voi gli emendamenti li avete presentati o no? Ci sono stati degli emendamenti. Noi segniamo in modo esplicito sul nostro sito queste cinque questioni che vi poniamo. Quindi possiamo discutere delle preferenze. Noi stiamo discutendo delle preferenze, della governabilità. Siamo contenti che voi ci abbiate fatto delle osservazioni su questa legge elettorale e sono un punto di partenza per trovare un incontro su determinate criticità. Noi pensiamo che una legge elettorale che possa venire fuori dal confronto su questo tavolo possa essere pronta in 100 giorni, approvata e diventare legge dello Stato. Ecco, senatore Michele Giarrusso, buongiorno. Allora, buongiorno a voi. Allora è iniziato un dialogo vero, mi sembra. Ma mi sembri sì. Ma, Ma lei che voto dà di questo incontro? Ma mi sembra molto positivo, i nostri se la sono cavata molto bene, hanno espresso bene la posizione del movimento, è stata chiara e c'è stato un dialogo franco anche da parte di Renzi sui punti fondamentali. Senta cosa ci diceva l'onorevole Crimi il 16 aprile. Il tema delle riforme, come in questo periodo ce lo stanno propinando, come la ricetta di tutti i mali, è una grande bufala che stanno cercando di mettere davanti per distrarci dai veri problemi del paese. Il problema è che, non so se vi siete accorti, che di tutti gli annunci le uniche cose che stanno andando avanti in maniera spedita sono le due cose più inutili probabilmente, le due cose meno efficaci per rilanciare questo paese, sono le riforme del Senato e la legge elettorale, come se questi fossero la panacea di tutti i mali. Ecco, in realtà non era poi così terribile iniziare a parlarsi, no? No, ma l'analisi che fa Vito è un'altra. Cioè, noi non dobbiamo illuderci che cambiando il Senato domani riparte l'economia e abbiamo il lavoro per chi no, lo no, ha perduto, ma non è per questo. Chi non ce l'ha. Certo. No, è perché questo è quello che viene spacciato. Sì. Cioè, c'è una domanda delle persone di cambiamento che viene interpretata a uso e consumo di alcuni che mirano a diversi assetti. Senatore Giarrusso, senta, dal confronto con Bersani, che voleva fare un accordo con voi, a quello con Renzi, che l'ha già fatto con Berlusconi, che cosa è cambiato? Solo la sconfitta elettorale? Guardi, mi scusi, Bersani lo ha dichiarato lui stesso che non voleva fare un accordo col Movimento 5 Stelle, ma cercava soltanto il voto di alcuni senatori 5 Stelle. Lui l'ha detto alla Festa dell'Unità, ha detto mica ero pazzo che volevo accordarmi col 5 Stelle, quindi sappiamo questo mito prima di tutto. Va bene. Non c'è stato nessun... Ma la sconfitta alle europee ha inciso sull'inizio, sull'accettare quest'idea di parlare con gli altri? Guardi, noi parliamo sempre con gli altri. Io personalmente sono in Commissione Giustizia, dove il dialogo è sempre ampio, almeno al Senato, addirittura c'è chi si lamenta che c'è un'altra maggioranza in Commissione Giustizia. E ne vedremo così delle belle sulla riforma della giustizia? Io temo di sì. Là il presidente Nitto Palma addirittura dice ma qua c'è la maggioranza grassa, ogni tanto ci insulta, no? In questo modo, riferendosi ovviamente al fatto che noi votiamo, come abbiamo sempre detto, le cose che condividiamo. Certo, beh, questo quindi lo immagino. Senta, ma no, ma lo facciamo sempre, mi segue, questo sì, è, non è... No, no, però la, insomma, la diciamo che la qualità del dialogo, la qualità del dialogo di ieri è diversa da quella degli altri incontri, sia con Bersani che con Letta. Senta, in definitiva, sul punto principale, che il giorno delle elezioni bisogna sapere chi ha vinto e chi ha perso, voi siete d'accordo? Allora, guardi, io devo dire una cosa. Mi dica sì o no, però mi dica sì o no. Glielo dico. Noi abbiamo dei sistemi elettorali che ci dicono il giorno delle elezioni chi ha vinto e chi ha perso. Li conosciamo tutti, anche se magari non ci pensiamo, e lei lo sa. Sono le elezioni comunali e quelle regionali. Abbiamo persone che vengono elette per 5 anni e non si schiodano dalla sedia. Ebbene, le maggiori voragini nei conti pubblici, i maggiori disastri... No, d'accordo, però io le ho fatto un'altra domanda. Però noi dobbiamo... Mi deve rispondere questo. Sì o no? Allora, a me l'idea che ci sia in politica... Sapere uno chi che ha vinto, che perde, diciamo che ecco, va bene, no? Non va bene. Non è una partita di calcio. Ah, ok, è perfetto. È pericolosissimo. D'accordo, non va bene, questo è importante. Segue tifoserie, non è giusto. Quindi neanche le alleanze dichiarate prima non vanno bene? No, mi ascolti. No, le chiedo sì o no, vanno bene o no? No, le alleanze vanno dichiarate. Noi siamo addirittura per obbligare i parlamentari a rispettare le alleanze che hanno dichiarato, si figuri, addirittura noi siamo per il... Perfetto, siete d'accordo allora, per quello siete d'accordo. Ci vuole una coerenza su quello che si dice e quello che si fa anche rispetto ai fatti. Il problema... Il problema è un altro, no, non possiamo è fare sempre un altro problema. No, no, ma è il problema dell'Italia. Hanno trasformato le elezioni in una partita di calcio. Vabbè. Chi perde, fra virgolette, le elezioni non va messo sotto. Quindi ma è meglio sapere chi... e quindi è meglio non sapere mai chi vince, diciamo. Assolutamente, non è così. L'importante è che le cose siano chiare. Chiare, naturalmente. Alle elezioni se uno vince è chiaro. I cittadini che partecipano, naturale. Sia quelli che esprimono, ma partecipano col voto. Sia quelli che esprimono l'opposizione. Senatore, so se... però partecipano col voto, dopo che l'hanno dato, c'è la delega a governare. Senta, ma che ci sia un Berlusconi per le riforme, per voi è importante o irrilevante? Ma io penso che sia un fatto grave, che non ha precedenti in nessun paese occidentale, che si facciano le riforme con una persona condannata per gravi reati, sotto processo e condannata già in primo grado per altri gravi reati, è una cosa che non ha precedenti e desta scalpore all'estero che non viene, dove non viene compresa e che danneggia gravemente l'immagine dell'Italia. Senatore, c'è Pietrangio Buttafuoco che vuol fare una domanda prima di chiudere. Buongiorno, sempre a proposito di Berlusconi. Il fatto che per esempio la trattativa Renzi con Berlusconi l'abbia fatta e l'abbia fatta senza streaming e invece con voi l'ha fatta con lo streaming non sembra far capire tutto il contrario, e cioè che lì abbia voluto giocare un tavolo definitivo e con voi invece utilizzarvi in funzione di misurare la sua forza proprio con Berlusconi? Guardi, la sua domanda è veramente centrata. Lascia intendere che noi siamo ben altro rispetto a Berlusconi. Con noi si può trattare davanti ai cittadini e in streaming, con Berlusconi no. Ma non potrebbe essere che si può trattare in streaming e non concludere invece riservatamente, come sempre si è fatto e come pretende la realtà e il realismo, concludere le cose? Il realismo ci ha portato al disastro in cui siamo adesso. Noi abbiamo bisogno di una sana partecipazione dei cittadini. C'è ancora Mario con l'informazione, dando un'informazione su quello che si vuole fare. Ci proviamo. Senta, Mario Secchi, ancora una domanda e chiudiamo, grazie. Sì. Volevo sapere questo, ma quindi lei auspica che venga escluso Berlusconi da parte di Renzi? Ma senza alcun dubbio, ma non è questione che io auspico, è un problema. Berlusconi è stato per 20 anni un problema per il nostro paese. D'accordo, ma adesso stiamo parlando di questo. Sto parlando della riforma elettorale. È ritornato come come costituente, ma stiamo scherzando. Ecco, senta, un'ultimissima cosa, senatore. Grillo si è detto soddisfatto dell'incontro. Allora, secondo lei soddisfatto di cosa esattamente? Allora, soddisfatto che c'è un reciproco riconoscimento delle proprie funzioni. Noi siamo l'opposizione e andiamo rispettato in quanto tale. Quando si parla di riforme costituzionali, che è la casa comune di tutti, non di chi vince, ma degli italiani, bisogna dialogare anche con l'opposizione. Questo è un passo avanti che è stato fatto da Renzi, che in campagna elettorale non ha speso poche parole per demonizzarci. Senatore, un'ultimissima cosa. Alberto da Treviso ci scrive: sono un elettore del Movimento 5 Stelle, a me non va per niente bene questo dialogo inutile. Guardi, toccherà a noi andare nei territori a spiegare che cosa è successo, perché la drammatizzazione data dalla stampa secondo me è eccessiva. Non è un patto per governare. D'accordo, siamo in chiusura, mi scuso, ma dobbiamo andare avanti. Grazie senatore, alla prossima volta. Grazie a voi. 24. Tornerei, lo so, ritornerei. E quando tu sarai con me, ritroverai tutte le cose che tu non volevi vedere intorno a te. Pietrangelo, ce l'abbiamo nel cuore tutti, un ritornerai. A te cosa chi te l'ha fatto venire in mente? Me l'ha fatto venire in mente, non ci crederete, ma me l'ha fatto venire in mente il fatto che stamattina in metropolitana si è presentato il fiume Tevere. Era ai tornelli, aveva addosso i riflessi dell'aurora e aveva pure sotto il mantello quelli della notte, quelli che di solito lui, sfociando nel mare, poi destina alle oceanine. E sedendosi tra i sedili, sedendosi tra i corrimano, ha cercato gli studenti che devono fare l'esame di maturità e con loro ha ripassato Eraclito d'Efeso dicendo: sì, è vero, è vero, è vero, non toccherai mai la stessa acqua, ma io, dice il Tevere, come il fratello Nilo, come il fratello Gange, come il fratello Neckar, dalla cui torre si affacciavano Fichte, Schelling ed Elderlin, beh, siamo le sentinelle dell'eterno ritorno, e ritornerà. Aspettiamo ognuno il suo ritorno. E intanto però, prima di sentire le bolle di Mario, voglio rispondere a Davide da Verona, che ci dice: avete letto il messaggio dell'ascoltatore 5 Stelle senza indicarne il cognome? Scommetto che l'ha scritto lui. Naturalmente si firma solo Davide da Verona. Quello che abbiamo letto, quello che abbiamo letto era Alberto da Treviso. Mi dispiace, non avete l'abitudine a firmarvi col vostro nome e cognome. Che cosa bolle nella pentola di Mario oggi? Vai. Siamo nel centro di Tunisi, le piazze principali sono presidiate dalle forze dell'ordine. La protesta continua. L'Egitto in fiamme, una giornata di guerriglia, quella vissuta nelle principali città del paese. Questa è la gioia degli egiziani per le dimissioni del presidente Mubarak. Allora, 3 anni dopo le primavere arabe sono quello che sono, l'abbiamo visto, ci concentriamo sulla Libia un po' stamattina, che ci riguarda da vicino. Che ci riguarda allora, tanto. Il voto è stato un disastro totale, 3,5 milioni gli aventi diritto, solo 1,5 milioni si erano registrati e alla fine sono andati a votare in poco più di 600,000. Quasi come in Italia alle europee. Sì, mamma mia. Ieri è successo un fatto gravissimo, è stata uccisa in casa Salva Bugayis. È una donna, un avvocato, tra le ispiratrici della primavera araba a Bengasi. È una grossa perdita, ovviamente, non c'è riconciliazione nel paese, questo è il dato vero. Insomma, Stati Uniti, Francia, Regno Unito hanno tirato giù Gheddafi per fare cosa? Per tirare su questo caos? Oggi l'Economist pubblica il Good Country Index. Su 125 paesi, sai qual è l'ultimo? La Libia. Cioè, siamo a un tiro di schioppo da casa nostra. Non so che cosa succederà. Vuoi andare da un'altra parte del mondo? Andiamoci. Va bene. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Allora, invece c'è da piangere, altro che don't cry, bisogna piangere, perché la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ci obbliga a pagare gli hedge fund, ci spinge verso il default. Ha detto oggi il ministro dell'economia argentino alle Nazioni Unite. Che si fa? Perché la situazione è davvero interessante. Sì. Vi propongo questo quadretto. Allora, l'Argentina è debitore e non vuole pagare. La Corte Suprema degli Stati Uniti, ai quali si sono rivolti gli hedge fund, ha detto no, dovete pagare. Nel frattempo c'è tutto un movimento internazionale che dice no, non bisogna pagare gli hedge fund perché sono dei vultures, cioè degli avvoltoi, i quali sapevano benissimo che il paese falliva e hanno comprato lo stesso i titoli di Stato. Quella è speculazione. È legale. E quindi siamo nel baratro quasi, perché cioè, mancano, cosa può capitare? Che tra 4 giorni in Argentina non paga e fa un altro default dopo quello di qualche anno fa. Rifallisce lì. Sì. E quindi chi ha titoli dell'Argentina? Bond dell'Argentina? Vado a pregare. Cosa vuoi che ti dica? Bisogna fare 800 24 00 24. Vuoi che risponda Enrico dalla sì, Grecia? Sì, sì. Enrico dalla Grecia, questo è il nostro unico ascoltatore in Grecia, no. E dice, Secchi, non ti spaventa la discesa del 2,9% del PIL americano nel primo trimestre? Sì, ma c'era maltempo e la Federal Reserve, della quale mi fido abbastanza, nelle sue analisi periodiche, dice che la ripresa c'è, ci sarà ed è abbastanza robusta. Quindi non ti preoccupa? No, poco. Per ora no, devo vedere il prossimo. Se il prossimo non va bene mi preoccupo. E intanto la nostra quota rosa. Te ne sei innamorata? No, Kit, ti prego. Invece te ne sei innamorata. Kit, lo hai baciato? Sulla bocca? Sì. Te ne innamori e lo baci sulla bocca, ma non ti ho insegnato niente. Senti, non sono stupida, ok? Io non sono innamorata. È solo che mi piace. Ti piace? Sì. Beh, non è brutto, è uno ricco, di classe. Che mi spezzerà il cuore, vero? No, no, dai, questo non lo sai. Lui ti vuole rivedere. Magari potreste mettere su casa e comprare qualche brillante, un cavallo. Non lo so, comunque può funzionare, capita, sai. Quando è che capita, Kit? Tu fammi un solo esempio di una che conosciamo alla quale è andata. Vuoi un esempio? Vuoi sì, che una ti faccia il nome? Vuoi che ti dica un nome, insomma? Sì, una qualunque. Quella gran culo di Cenerentola. Ecco, era Pretty Woman. E quando avete bisogno di dare un lieto fine a una giornata orrenda, consiglio di guardare 2 o 3 scene di questo film e passa qualunque cosa. Ma quello che volevo dire usando Pretty Woman è che certe volte anche nella vita vera ci sono persone che superano il perbenismo discriminatorio. E di nuovo una sentenza, infatti, del Tribunale di Roma a dare la scossa ai ben pensanti. Una prostituta chiedeva 100 euro a un suo cliente per una prestazione sessuale consumata ma mai pagata. Questa sentenza dice che non si può ritenere ingiusto il profitto che pretende questa prostituta, anche se fino ad oggi non era tutelata questa pretesa dall'ordinamento perché dicevano contrario al buon costume. Beh, secondo questo giudice è il cliente che non paga ad essere contrario al buon costume. Ora vi chiedo, mi sono chiesta io, ma la prova del pagamento? E poi mi sono data una risposta. Arriva il POS obbligatorio per tutti. Salamino. Salamini da Bagnetti, Bagnetti. Allora, Laura Boldrini, presidente della Camera, per non essere da meno del suo collega Pietro Grasso, che è la seconda carica dello Stato, autore di Lezioni di Mafia, sta lavorando ad una grande opera civile, Lezioni di Sbarco. Ha già fatto approntare i cartelli Welcome to Italy e tutto questo, immedesimarsi tra i naufraghi, coi sommersi e i salvati, l'umanitarissima Boldrini lo fa nella tenuta di Castel Porziano, dove, pur non essendo lei ancora il capo dello Stato, fa il bagnetto. Il suo portavoce, Roberto Natale, ha inviato una lettera a proposito, l'ha inviata al giornale a proposito. Facciamo gli auguri al giornale per i suoi 40 anni, Mario. Mario, noi siamo stati andato al giornale, no? Ah, sì, 10 anni. Però sai che non mi hanno invitato? No. Ho fatto solo 10 anni lì. Ero troppo anche pochi. Pochi, forse, sì, 10 su 40, 40 in effetti, sono pochi. No, vabbè, insomma, questi che auguri sono? Ma era solo così, ero curioso di capire perché. Poi sono stato anche vice direttore, lo sai. Vabbè, ho scoperto. Aspetta, no, perché è bellissima, scusa. No, ma siccome mi hai chiesto, ma non hanno pubblicato un pezzo di Piovene? Sai che mi ha raccontato Francesco D'Amato, il quale fondatore, anche lui non è stato invitato. Strano. Ma se posso invitare tutti. Certo, no, i fondatori soprattutto. Però colpo mai. Però, scusa, ho saputo che hanno invitato Bruno Vespa. Beh, esatto, che col giornale non c'entra nulla, è fantastico. Però è un VIP. Però è un VIP. Mezzo VIP. È un VIP, è meraviglioso. Mezzo VIP. Semi VIP. No, ti dico, ma cose meravigliose, non c'era un ricordo di Bettiza. Vabbè, dai. Scusa, no, aspetta, perché sennò sembra il passato. Sai che il pezzo di Vittorio Feltri l'hanno messo a pagina 59? Però l'hanno, però 59 l'hanno su 64 però non è male. L'hanno messo. Allora, intanto, auguri al giornale. Auguri. Che festeggia i 40 anni. E dicevo che Roberto Natale, il portavoce della Boldrini, scrive una lettera dove fa sapere che comunque a Castel Porziano non ci sono servitori in abiti esotici né tanto poco, i vassoi sono ricolmi di rubini e smeraldi. La signora è saltuaria ospite, sottolinea il portavoce, e poi dice una cosa veramente importante, cioè che questa benedetta tenuta si trova tra le spiagge di Torvaianica e Ostia, quindi non è che stiamo dicendo che sia una situazione Caraibi, né tantomeno sono le belle spiagge di Sicilia, insomma vuole abbassare il livello. Ma allora il problema qual è? Dice giustamente il portavoce Massimiliano Scafi del giornale, risponde, dice così: allora, ma se lei è abituata alle emergenze, si è abituata a dormire sotto le bombe, si è abituata anche agli scarafaggi africani, perché non se ne va a Torvaianica e Ostia? Io una risposta ce l'avrei. Non ci va perché sono troppo affollate. Non c'è un solo granello di sabbia libero e quindi dedico alla umanitarissima Boldrini questa canzone. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggi. La Tardelli conquista fan. Sto guardando la foto di Sara Tardelli su internet. Ci scrive, ma non si firma. È carinissima, è bravo Marco. Ora gliene faccio un'altra. Vai con la bolla. No, sta selfizzando qualsiasi cosa, è tremendo. Vabbè, cioè, facciamo volare un drone, ma... Dai. Era un drone o un motorino? Più un motorino che un drone, ma cascano i droni. Sai, abbiamo visto che cadono, quindi insomma. Il vecchio ciao della Piaggio, sembrava. Vabbè, insomma, c'è poco da ridere. Fai sentire di nuovo? No, è un motorino della Peugeot. È un drone. Guerra in Iraq. Bene, la notizia è che l'Iran ha deciso di aiutare l'Iraq, l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, e dice: manderemo dei droni. Fermi tutti. L'Iran ha dei droni. Perché uno dice, ma quelli hanno i droni. E allora tutti nel mondo diplomatico degli affari esteri si sono detti, hanno i droni. E in effetti la cosa è molto divertente, perché tutti si erano scordati ma di questo. Ma pare che questi droni ce l'hanno tutti, dai. Ma certo, ci sono i droni, i drononi, i dronini. I dronetti anche. I dronetti sono i peggiori. Ci sono anche, pago tre, prendo due. Comunque, su Foreign Policy c'è un bellissimo pezzo, stamattina, che fa la rassegna di tutti i droni. Ce ne sono alcuni meravigliosi, che sono la copia di quelli americani. È la tecnologia che si sta diffondendo in maniera incontrollabile anche per gli stessi, appunto, lo smart americani. Drone avremo tra poco. Lo smart drone. Canzoniere. Ecco, si spegne il lume. Nuovamente me forza a rianimarlo prima del tempo mio di insonnia. Il sonno mio non è sogno, è continuo pensiero ostinato. Eppure io vivo, ho l'aspetto, la forma, il respiro degli uomini viventi, sapere e patire, sventura è la vita degli uomini sapienti, coloro che più sanno, più amaramente debbono conoscere il loro fato. Mix 24. Salamino. Salamino da crack culturale, il grande crack, il fallimento della capitale, il racconto del disastro di Roma nel reportage di Francesco Merlo oggi su Repubblica. Allora, 5 miserabili biglietti al giorno per capire il magnifico fallimento, la morte della cultura al Museo Monte Martini. Non ci sono visitatori, solo fantasmi. E poi, sì, si sono spenti 50 cinema in città, chiuse 50 librerie, chiude dopo 12 anni il Festival della Fotografia, chiuso da 2 anni il Teatro India, ed è l'ennesima conferma che la cultura Roma rimane romanesca. Non ci sono mai i legionari, ma i gladiatori, e quindi vale come pietra tombale quello che fu il tentativo di raccontare Roma in una dimensione cinematografara. Ascoltate. Volevo diventare il re dei mondani e ci sono riuscito. Che merdellone. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire. Che meraviglia. Meraviglioso. Dopo il giornale radio racconteremo, Marina Milone ci racconterà la storia di un caso ancora risolto, il caso dell'omicidio di Bruno Caccia, un magistrato integerrimo, ucciso dall''ndrangheta il 26 giugno dell'83. Che trova i suoi nemici proprio nella stessa procura di Torino. Il giudice istruttore torinese Sebastiano Sorbello ha rivelato che il sostituto procuratore generale della Cassazione, dopo l'omicidio Caccia, si recò a Torino e cercò di intercedere in favore di un boss dell''ndrangheta. Dopo il giornale radio, David da Roma? Sì, David, buongiorno. Allora, ciao, buongiorno. Hai indovinato? È il Manfred di Byron. Giusto, giusto. Il Manfred con il sottofondo Schumann. E Davide, dov'è lei in questo momento? Sono a casa. A casa, cosa fa? Sì. Cosa fa a casa a quest'ora? Ma è a casa a quest'ora, nulla. Però volevo dire una cosa, che io l'ho recitato quest'estate, il Manfred di Byron. Ah, lei è un attore? Sì, faccio l'attore. Ecco, allora non è che non fa nulla, sta studiando. No, certo, però faccio a questo punto anche un minimo di pubblicità, perché faccia, rapidissimo la faccia. Meraviglioso. Uscirà un film a breve, dove appunto con la regia di Marco Filiberti, dove io interpreto un personaggio che recita proprio il Manfred di Byron. Bravo, complimenti, ha vinto il nostro libro. Perfetto, grazie. Professore, all'ascolto? Sì. Ah, professor Simonelli, abbiamo una sorpresa. Tutte le sere chiuso in casa, tutte le sere, guardo il programma di canzoni, guardo Buongiorno o Lavanoni, guardo il romanzo sceneggiato. Anche se non gli va. Ora la sera non può uscire mai con nessuno. Deve vedere TV7, Johnny Dorelli o Studio 1. E la tribuna elettorale. Anche se non mi va. Professore, il racconto della sua serata? Spesso è così. La conosceva questa canzone del Quartetto Cetra? Grandissimi. Allora, dove era il canone ieri sera? È proprio una di queste serate, alla ricerca un po' vana del canone, perché ancora una volta mi sono fatto condizionare dalla critica televisiva che anticipa sempre le cose dicendo... Senta, ma questa arriva. Critica televisiva, ma chi è sta critica? Diciamo qualche giornale. Ah, giornale, Repubblica, va bene. Corriere, okay. Corriere. Cioè tutti. Corriere ha detto 2 volte, Repubblica una sola, immagino che sia il Corriere. Si dice che bisogna assolutamente seguire queste serie americane. Ieri sera, Atlantic, alle 10, arrivava una nuova serie americana, VIP, col marchio prestigiosissimo HBO, la storia di una vicepresidente degli Stati Uniti imbranata. Ma le è piaciuta o no questa serie? D'accordo col critico? Sono d'accordo, scusi. È d'accordo col critico? Le è piaciuta questa serie? Assolutamente no. Ah, assolutamente una noia mortale. No. Ah, una noia. Pare che non può criticare il critico. Sembrava Dario Fo, quindi. Non può criticare il critico. Questo non è colpa della serie, ma la serie ci mette del suo. Assolutamente pasticciata, un po' fantoziana, non capisco proprio il capolavoro. Quando vedo queste cose Allora dico ben venga Don Matteo, so che lei è abbastanza d'accordo. No, io non lo guardo mai, quindi non saprei, però 8 milioni di italiani lo guardano, sì. Sì, sì, quindi, ma so che... Ieri sera il canone... È critico che critica. Allora sa dove l'ho trovato invece? Dove l'ha trovato? Lo dico a lei perché so che è sensibile ai problemi della lingua italiana. Mi dica. Durante il dibattito di 8:30, sì, la deputata, eurodeputata Moretti, sì, ha detto: abbiamo avuto da parte dei 5 Stelle degli insulti e delle canzonature. Allora, di fronte a questo sostantivo, canzonatura, anche Lilli Gruber è rimasta sorpresa. Allora, il canone è laddove si può usare e si sa usare una parola italiana come canzonatura. Perché quindi, se c'è una cosa da difendere, beh, noi canzoniamo con il canone molto, è la lingua italiana. Quindi 10 alla Moretti. Merito di Ale. Invece, insomma, la perplessità della Gruber era un po' eccessiva, però è servita a sottolineare il fatto che ci sono delle persone che parlano ancora l'italiano. Siccome in questi giorni abbiamo visto più volte, insomma, la registrazione di quel discorso famigerato del prefetto di Perugia, che ancora più che per i contenuti mi ha scandalizzato per la forma, per l'italiano, allora viva le canzonature e viva l'eurodeputato Moretti. Va bene. Posso aggiungere una cosa? Sì, rapido. Spero che il canone torni nei programmi sportivi, soprattutto del servizio pubblico, dopo l'eliminazione dell'Italia. Spero che si torni a parlare del mondiale e non delle beghe italiane, perché il mondiale è l'occasione per parlare del calcio in Iran, in Svizzera, in Turchia, in Algeria, in Africa. Professore, ringraziamo Emma da Bolzano per le sue riflessioni. L'abbiamo detto nella seconda ora. Sergio Leginski racconta la storia di Bruno Caccia, curata come sempre da Marina Milone.